Allora, facciamo un brevissimo resoconto dei quattro punti che abbiamo visto la volta scorsa, che sono semplicemente l'economia atomica, cioè non basta la resa per capire se una reazione è sostenibile da un punto di vista di green chemistry, ma bisogna vedere quanto materiale viene buttato via dalla reazione, sostanzialmente. Il secondo punto era sintesi chimiche meno prevenzione era è meglio pensarci prima ai prodotti che poi dovremo buttare via perché tutto ciò ha un costo e se riusciamo preventivamente a fare qualcosa che non deve buttare via niente, siamo tutti più contenti perché poi alla fine si spenderà di meno e soprattutto inquineremo comunque l'ambiente meno. Terzo punto era sintesi chimica meno pericolosa. È chiaro che se noi dobbiamo usare del fosgene per fare il cloro di un acido, è meglio trovare un altro sistema e l'altro sistema, poi lo vedremo, potrebbe essere in questo caso un qualsiasi composto come il dimetilcarbonato, per esempio, per fare gli esteri e gli eteri metilici. Il numero 4 è la progettazione di composti chimici salubri o salubri, nel senso che se noi durante la nostra progettazione dobbiamo passare attraverso composti che hanno un certo tipo di pericolosità e che comunque ci portano ad avere delle difficoltà nel maneggiare questi prodotti, beh, cerchiamo di fare gli stessi prodotti finali che avranno più o meno le stesse caratteristiche, anche se non sono gli stessi prodotti, ma comunque prodotti che abbiano le stesse caratteristiche, ma passando per esempio per vie alternative, quindi o vie alternative, oppure anche un prodotto veramente diverso da quello che vogliamo sintetizzare, che abbia le stesse caratteristiche e che comunque nel suo processo abbia meno difficoltà da un punto di vista di Green Chemistry di essere trattato. E veniamo al punto numero 5, punto nuovo. Punto numero 5, solventi. E qui si apre un discorso interessante. Noi i solventi che usiamo in chimica sono solventi come l'etere etilico, il benzene, che ne so, il dimetilsolfossido. Possiamo ancora permetterci di utilizzarli? La risposta è no. Per quale motivo? Perché questi solventi sono pericolosi. Perché? Sono pericolosi per due o tre motivi fondamentali, non per uno solo. Primo, ti fanno male alla salute, cioè te li respiri, anche se cerchi di fare qualcosa di perfetto, di utilizzare un ambiente eccezionalmente pulito, le cappe che funzionano bene, il laboratorio che deve avere una pressione interna superiore alla pressione del corridoio, per cui quando tu apri la porta la roba uscirà dal laboratorio e non entrerà niente dentro. Funzionano così le cappe moderne, devono essere calcolate in questo modo. Quindi si calcola un flusso particolare che deve servire a ottenere questo tipo di risultato. Certo, all'interno del laboratorio noi dobbiamo avere una pressione interna superiore alla pressione esterna. Quindi se lasciamo la Cioè porta. spesso però succede il contrario. Spesso succede il contrario, certo, Infatti. il problema è che tutto deve uscire dal laboratorio, non ci deve entrare niente dentro, tutto deve uscire e ci sono le cappe aspiranti, ma le cappe aspiranti aspirano e fanno il vuoto nel laboratorio, quindi ci deve essere un impianto di aria forzata che faccia entrare più aria di quella che esce tecnicamente, perché così uscirà l'aria che noi considereremo consumata, ma entrerà comunque un volume di aria che lascerà il laboratorio una leggera sovrappressione. Quindi, quando si apre la porta, l'aria deve uscire, non deve entrare. Nonostante che noi si utilizzino queste precauzioni, nonostante che si sia montata un'apparecchiatura perfetta, per cui tutto è all'interno dell'apparecchiatura e non deve uscire niente all'esterno, i rischi sono sempre quelli che succeda qualche cosa per cui qualcosa contamina l'ambiente. In quel contesto, l'utilizzo di questi solventi può essere pericoloso. Perché? Non solo perché te li respiri e ti fanno male, in qualche modo alla salute, ma perché sono, punto numero due, pericolosi per vari problemi. L'etere etilico bolle a 35 gradi, ha un punto di fiamma è abbastanza basso, per cui come lo guardi, se non stai attento, si incendia. Per cui da un punto di vista di chimica industriale soprattutto, quando si usano tante una grossa quantità di questa roba deve in qualche modo o essere sicuramente contenuta in un posto per cui non contamina l'esterno, oppure devi usare, se non sei sicuro di poter realizzare questa condizione, devi usare un'altra cosa. Allora, siccome non siamo mai sicuri di poter realizzare questa condizione, perché un errore, che può essere un malfunzionamento dell'apparecchiatura, un errore dell'operaio che ci lavora sopra, un errore del tecnico, che è sostanzialmente prevedibile ma non al 100%, c'è una probabilità che comunque l'errore ci sia sempre, allora che cosa dice la Green Chemistry? Beh, facciamo così, anche se ci sarà l'errore e qualcosa verrà fuori e ce la dovremo respirare, saremo sicuri che questa roba non ci fa tanto male, oppure siamo anche sicuri che prenderà fuoco con meno volontà, meno volentieri. Ecco, questa è l'idea di portare avanti un cambiamento dell'uso dei solventi. Per cui noi possiamo scrivere i solventi che usavamo tanto tempo fa e sono solventi di natura diversa. Per esempio c'è l'etere etilico, c'è il diossano, 1,4 diossano, che sono i solventi che venivano utilizzati, l'etere etilico, il tetraidrofurano, che sono solventi di natura eterea. Etere etilico bolle a 35 gradi, diossano bolle a 102 e il tetraidrofurano, se non mi ricordo male, bolle a 65 gradi. È chiaro che hanno poteri solvatanti differenti, ma la loro temperatura prevede che tu abbia un volano termico differente. Cioè, puoi utilizzare il punto di ebollizione del solvente come volano termico, perché è così che te, come si dice, regoli la temperatura. Non sicuramente con un termometro e con un termomanto, con un bagno a olio, perché un conto è regolare la temperatura esterna, un conto è regolare la temperatura interna. Quindi avresti una grossa difficoltà nel regolare la temperatura pensando che tu lo possa fare elettronicamente. Non funziona. Non funziona proprio, perché basta che uno apre una porta in un laboratorio, c'è una corrente d'aria, ti fredda il pallone di reazione e la reazione scende. E quindi se la reazione deve essere termicamente controllata e la reazione per ottenere quel determinato prodotto deve avere quella temperatura lì, te non puoi usare l'elettronica. Ci si può arrivare vicini con l'elettronica, ma sei molto più sicuro se puoi fare una reazione a 65 gradi, la fai in tetraidrofurano e quella, stai tranquilla, che all'ebollizione il tetraidrofurano ti mantiene la temperatura come volano termico a 65 gradi. A 66 non ci va, neanche con la lancia termica. Quando te ci butti la lancia termica sul pallone di reazione, le molecole di tetraidrofurano che passeranno allo stato vapore sono di più nell'unità di tempo, ma stai tranquilla che la temperatura rimane al punto di ebollizione del tetraidrofurano, anche se lo metti sul sole. Questa è una cosa importante. Questi sono i solventi eterei, poi ci sono i solventi idrocarburici, che sono il pentano, l'esano, che sono i solventi che noi sostanzialmente utilizziamo. Poi ci sono i solventi clorurati, che sono il cloroformio, il tetracloruro di carbonio e il cloruro di metilene. Sostanzialmente sono questi che utilizziamo come solventi clorurati, tranne qualche caso particolare. Poi abbiamo dei solventi veramente che sciolgono anche i sassi, come dico io, che sono la dimetilformammide, il dimetilsolfossido, eccolo qua, per esempio questo, altro eterociclo, che ha negli anni passati sostituito la dimetilformammide, avendo praticamente la stessa struttura chimica della dimetilformammide, ma una struttura ciclica che ne aumentava, se così si può dire, la tensione di vapore, e cioè, ne respiri di meno sostanzialmente, ma ha un potere, un punto di ebollizione più alto, quindi ti permette di andare anche oltre il punto di ebollizione che è già elevato della dimetilformammide, ma sostanzialmente ti fa meno male perché lo ingerisci di meno se succede qualcosa per la sua tensione di vapore. E questi sono solventi che sciolgono anche i sassi, come si diceva prima, perché hanno sia parti acide, come questo idrogeno, che può formare legami appunto idrogeno, che i doppietti degli elettroni del gruppo ammidico, due dell'ossigeno e uno dell'azoto, che quindi tenderanno a solvatare cose positive. Questi solventi non possono più essere utilizzati, allora bisogna tentare di immaginarci di utilizzare qualche altro solvente, senza ancora aver toccato l'idea di cambiare completamente strategia sui solventi di reazione. E allora, al posto dell'etere etilico, se vogliamo rimanere nella idea che dobbiamo utilizzare un etere, l'etere che viene permesso è il metil terziabutiletere. Questo sicuramente ha un potere solvatante sicuramente inferiore a quello dell'etere etilico, perché ha un ingombro sterico superiore, ma ha la capacità, insomma, di prendere fuoco molto meno evidente che non l'etere etilico. Ha un punto di ebollizione molto più alto, quindi può essere utilizzato come volano termico. Ha un costo, ahimè, superiore, però ha la possibilità di essere comunque recuperato in qualche modo e quindi riciclato, ovviamente. I solventi si recuperano bene se hanno un punto di ebollizione alto, si recuperano male se hanno un punto di ebollizione basso. Io, per recuperare l'etere etilico, posso avere il mio rotavapor con un'efficienza più grande del mondo, ma stai tranquillo che come entri in quel laboratorio senti l'odore dell'etere etilico, anche se hai messo il rotavapor sotto cappa, e su questo non c'è nessun problema. Il diossano non va più bene, il tetraidrofurano non va più bene, ma quello che si usa al posto del tetraidrofurano è o il 2-metil tetraidrofurano o addirittura il 2,5-dimetil o il 2-metil tetraidrofurano o il 2,5-dimetil tetraidrofurano. Allora, questi due solventi sono evidentemente simili al tetraidrofurano, hanno un punto di ebollizione leggermente superiore, hanno la caratteristica di essere meno nocivi per il problema della tensione di vapore, cioè sostanzialmente ne respiri di meno, anche se questi dovessero invadere l'ambiente dove te stai lavorando. Problema: ma questa roba costa. È certo che costa. Quindi la Green Chemistry ha dovuto trovare un sistema, che poi vedremo nelle prossime lezioni, per fare questi composti a basso costo. Questo è l'aspetto della questione. Si fanno a basso costo, si fanno anche da sostanze rinnovabili, per cui, come lo xilosio, per esempio, quindi dalla canna da zucchero sostanzialmente, e quindi siccome se ne fa tanto e se ne produce tanto a basso costo, può essere utilizzato dall'industria se uno ha proprio bisogno di un solvente che abbia una struttura di natura tetraidrofuranica. Pentano esano, no, il pentano bolle a 35 gradi, sostanzialmente è come l'etere etilico, si spande nell'ambiente e te non te ne accorgi, cioè se c'hai una bottiglia di pentano aperta, nell'istante in cui tu stai prendendo il pentano, anche se lavorerai sotto cappa, eccetera, eccetera, ti tocca respirartelo. Ora, una volta si faceva tranquillamente senza tanti problemi, ora si cerca di evitare che queste cose accadano e quindi sostanzialmente il pentano non va più bene. Il problema dell'esano. L'esano ha un punto di ebollizione più alto, un punto di fiamma più alto, quindi sicuramente è meno pericoloso, lo puoi usare però meglio come volano termico, però è ancora estremamente sconsigliato. Questo non vuol dire che l'industria non lo utilizzi, l'industria lo utilizza, il pentano proprio non si può usare, ma l'esano ci chiudono un occhio, diciamo così. Beh, in questa operazione, cioè nella chiusura dell'occhio sull'esano, si è pensato che il solvente che potesse in qualche modo essere il sostituente dell'esano era o l'eptano o il cicloesano. Questi sono solventi diversi, però qual è il problema del leptano? Che ha una viscosità superiore a quella dell'esano e a quella del pentano. Disse, e te dirai, e chi se ne frega? No, nel laboratorio, in una reazione con un pallone da 250 ml, te ne puoi anche fregare, ma in un reattore da 250 litri, la miscela del il volume del reattore deve essere agitato, e deve essere agitato da una paletta, che è una paletta industriale, quindi una palettona grossa, che è legata a un motore. Se i solventi diventano più densi, il motore fa più fatica ad agitare la miscela di reazione e si creano due problematiche. Primo, l'agitazione diventa più schifosa. Due, il motore si rompe prima. E su questo non c'è ombra di dubbio, perché fa più sforzo. Allora, il problema è che è vero che leptano da questo punto di vista chimico, salubre, è migliore del pentano e dell'esano, però devi tenere presente che ci saranno delle problematiche sull'impianto nell'utilizzare un solvente che ha una densità superiore. Questo sempre tenetelo presente. E qui veniamo ai solventi clorurati. I solventi clorurati, che erano una panacea per certi composti, perché sono solventi in grado di solvatare sia cose polari sia cose non polari. CHCl3 estremamente polare, CCl4 ovviamente molto meno. Quindi c'era un po' l'uso del legame carbonio-cloro nei solventi un po' da bosco e da riviera, nel senso che servivano un pochino per tutte le cose che avevamo. Il simile scioglie il simile. Hai una cosa polare, usi il CHCl3. Hai una cosa non polare, usi il CCl4. Per esempio, sulle thin layer chromatography, sulle lastrine, ci sono due miscele importanti di solventi che vengono utilizzati. In realtà ce ne sono tante, ma due. Una è l'acetato di etile esano, uno polare, l'altro non polare, e l'altro è CCl4-CHCl3, che sono la rappresentazione analoga della miscela acetato di etile esano, però con una polarità differente che ti permette di lavorare su composti a polarità differente. Calibri la percentuale di uno dei due e vedi come il solvente ti funzionerà meglio nella separazione della miscela di solventi, nella separazione del prodotto finale. E qui ci abbiamo dei problemi. Cosa usiamo? Allora, guardate, in effetti noi possiamo utilizzare il cloruro di metilene non tanto nella reazione, perché grosse quantità di cloruro di metilene nella reazione sono viste male dalla Green Chemistry. Sostanzialmente, tra le altre varie cose, questi solventi hanno il brutto effetto di spappolarti le cellule del fegato, quindi meno le respiri meglio è. Tra parentesi, il cloruro di metilene è quello che ha un punto di ebollizione più basso di tutti, come al solito, quindi è quello che respiri di più ed è il più accettato dalla Green Chemistry, ma non per fare le reazioni, per separare i prodotti. Semmai, se tu devi fare una reazione, non la farla in cloruro di metilene, ma usa il cloruro di metilene nelle fasi successive per separare i prodotti con quei sistemi che per esempio usano gli imbuti separatori che nell'industria sono imbuti separatori industriali, liquido-liquido. Il laboratorio, a mano, vai con questo imbuto separatore, agiti e separi i prodotti organici che ti rimangono sotto forma neutra nel cloro di metilene, e in acqua, per esempio, vanno via i sali, eccetera, eccetera. Dimetilformamide o solventi come il dimetilsolfossido vengono sostituiti in qualche modo da solventi come potrebbero essere l'aceto nitrile, cioè, per esempio il CH3CN. L'aceto nitrile è sicuramente meno pericoloso e ha anche una caratteristica che però come tutte le cose, è una caratteristica positiva da un lato e negativa dall'altro. CH3CN, cioè l'aceto nitrile, è solubile nell'acqua. È solubile nell'acqua come la dimetilformammide e come il dimetilsolfossido. Quindi vedi che stai trovando qualcosa che in qualche modo cerca di imitare quello che avevi prima, in qualche modo. Quando un solvente è solubile nell'acqua e ti serve un solvente solubile nell'acqua perché ci sono delle reazioni che te vuoi fare in fase omogenea e mezzi prodotti sono solubili nell'acqua, mezzi prodotti sono solubili in un solvente organico, te sei costretto ad utilizzare solventi solubili nell'acqua. Perché così la fai, metà in acqua, metà in quel solvente. Una volta si usava il tetraidrofurano, ora non lo puoi più usare il tetraidrofurano, quindi dimetilformammide, dimetilsolfossido oppure aceto nitrile, che è un solvente abbastanza polare, per cui ti fa gli effetti della dimetilformammide. Però dopo il problema è che si separa peggio questa roba, perché è chiaro che tu dovrai separare il solvente solubile nell'acqua. Devi trovare il modo di toglierlo dall'acqua, quindi un solvente che non è solubile nell'acqua te con un imbuto separatore te la cavi, un solvente che è solubile nell'acqua devi usare dei trucchi che in qualche modo non ti portano via soldi, tempo, denaro. E non puoi usare sicuramente qualche altro solvente, perché allora noi stiamo cercando di eliminare la quantità e la qualità dei solventi, magari non utilizzarli per niente, per cui, voglio dire, è un problema poi alla fine, no? Lavorare su questa roba, sempre che sia solubile nell'acqua. Ci sono degli altri solventi che possono essere, per esempio, i solventi alcolici, metanolo, etanolo, propanolo, questi solventi, anche questi non possono essere usati come prima. Il metanolo, togliamocelo dalla testa. Alcuni libri riportano il metanolo come un solvente utilizzabile. No, io direi di no, metanolo no, il metanolo ti fa male al fegato, ti distrugge il fegato. E perché? Non tanto perché produce poi fenomeni collaterali incredibili come la cecità da una parte, il fatto che il fegato sviluppi degli enzimi per cui il metanolo si trasforma in aldeide formica ed è un agente cancerogeno. Questo è un po' il problema del metanolo. Quindi io il metanolo lo utilizzerei, al posto del metanolo userei degli alcoli un pochino più grossi come peso molecolare, che potrebbero essere il normalbutanolo, il terziarbutanolo, che sono composti ovviamente che prendono fuoco con più difficoltà, hanno un punto di ebollizione più alto, più elevato, quindi li puoi utilizzare come volanti termici, li separi meglio dall'acqua perché chiaramente avendo una catena di atomi di carbonio più lunga hanno una solubilità nell'acqua minore, quindi risparmi un sacco di soldi e un sacco di fatica, ovviamente. Un altro solvente che viene utilizzato sostanzialmente nelle reazioni organiche è l'acetone. Beh, l'acetone viene utilizzato ancora nelle reazioni organiche ed è abbastanza ben visto dalla Green Chemistry. Io suggerirei, come suggeriscono alcuni autori, di sostituire l'acetone con il metiletilchetone. Ha un odore più sgradevole sicuramente dell'acetone, però c'è tutta una serie di problematiche che il metiletilchetone può risolvere. Punto di ebollizione più alto, volano termico più alto, tensione di vapore un pochino più corretta, ne respiri di meno. Ha una minore solubilità nell'acqua, per cui c'è più facilità poi da estrarlo dall'ambiente di reazione e quindi sei in grado di utilizzare meglio questi composti. Altro solvente utilizzato nell'industria era fino a poco tempo fa, e lo è ancora se vogliamo, la piridina, come solvente basico per eccellenza. La piridina si usa nel 30% delle reazioni organiche, tenete presente, quando si vuole mantenere la basicità della reazione sempre sotto controllo, che ne so, nella reazione di ossidazione con piridinio cromato si usa la piridina sovente, perché la piridina mantiene l'ambiente di reazione basico e il potenziale ossido riduttivo del cromato non sale a quei livelli che ti porterebbero un alcol direttamente ad acido, ma in quel contesto ti fermi ad aldeide. È un esempio, no? Reattivo di Sar, di Jones, reattivo di... Poi ne sono stati fatti tantissimi. È Corey ha fatto un suo reattivo con questa... tipo di procedura, piridinio cromato, piridinio clorocromato, piridinio bromato, piridinio bromo bromato, di tutti i colori. Poi il principio è: lo faccio in piridina perché la piridina solvata le cose, ma comunque è un ambiente basico che da una parte il doppietto dell'azoto mi complessa il cromo, e quindi CrO3 che io sto usando nell'addotto CrO3 piridina, per esempio, la CrO3 diventa solubile in qualche modo. Però il compito vero è quello di tenere sotto controllo il potenziale ossido riduttivo del cromo, sostanzialmente. E lì, al posto della piridina, io che cosa devo usare? Al posto della piridina userò la trietilammina. La trietilammina ha un punto di ebollizione abbastanza basso, non tanto basso, e può comunque essere come si dice, eliminato abbastanza bene con le tecniche tipo rotavapor. Se voi avete una soluzione di piridina, bisogna scaldare tanto perché la piridina anche sotto vuoto se ne vada rapidamente. La trietilammina se ne va in un secondo. Chiaramente, dall'altro punto di vista, bisogna utilizzare un rotavapor che abbia delle efficienze eccezionali. I vecchi rotavapor che avevamo in dipartimento non avevano questo tipo di caratteristica, e quindi è un bel casino. Ora non abbiamo i soldi per comprare dei rotavapor nuovi, ma uno basta che lo sa, sto respirando qualcosa che mi fa male e già è più contento. La dimetilamminopiridina. Dunque, la dimetilamminopiridina non è citata sostanzialmente negli elenchi per i buoni solventi. Sono obbligato ad utilizzarla in quelle reazioni in cui la piridina fa da nucleofilo. E quando fa da nucleofilo, allora noi abbiamo un problema. La piridina è questa, la dimetilamminopiridina è quest'altra. Questo doppietto di elettroni qui ha una caratteristica: qui ci si attacca per ingombro sterico solo un protone e fa il dimetilamminopiridinio qualcosa. Bene, quindi quando io ho da estrarre un protone, questo va bene. Quando io devo far reagire questo composto in una reazione in cui sta avvenendo una reazione di sostituzione nucleofila, devo evitare la piridina perché sarà la piridina che poi mi fa da nucleofilo. Allora io cosa faccio? Ci metto due metili in posizione opportuna, la 2 e la 6, e così qualsiasi altro elettrofilo che sia più grosso di un H+, qui non ci si attacca. In quel contesto sono obbligato ad utilizzare questo, che ha un costo, ma si usa come reagente, non si usa come solvente. Cioè te ce ne metti quel tanto che ti basta per fare quella reazione, ma in realtà usi un altro tipo di solvente dentro. È giusto puntualizzare questo tipo di cose. Sempre rimanendo sui solventi, Noi possiamo però scegliere di fare qualcos'altro, cioè di cambiare strategia e di usare come solvente o l'acqua, o di non usare nessun solvente, o di usare solventi completamente diversi. Tra questi vi citerò i solventi che si chiamano liquidi ionici, che sono sali di ammonio quaternari, solitamente a temperatura ambiente solidi, ma basta che scaldi un pochino che diventano liquidi. Grande capacità di solvatazione di tutte le cose polari e ioniche, quindi anche i sali inorganici, ma anche grande viscosità, quindi con delle difficoltà nell'agitazione del bulk di reazione. Possiamo usare solventi completamente fluorurati, perché questi hanno delle caratteristiche che poi vedremo in un opportuno capitolo, e vedremo come questi solventi possono essere veramente il toccasana, se vogliamo, in reazioni in cui ci aspetteremmo di dover per forza usare solventi di difficile manipolabilità, e invece diciamo che il solvente polifluorurato ci salva la vita. Ci salva la vita. Solvente polifluorurato che avrà un costo, ma il solvente polifluorurato, per sue caratteristiche generali, si separa bene dall'ambiente e lo posso riciclare con grande facilità senza spendere soldi. Ecco. Punto numero 6. Disegno della efficienza energetica. Cosa vuol dire? Quando io faccio una reazione, uso l'energia. L'energia di che tipo è? È un'energia rinnovabile? È un'energia che inquina? E finché faccio una reazione in laboratorio, chi se ne frega? Ma quando vado a fare una reazione su un impianto industriale, la roba che metto a reagire è tanta, l'energia che devo utilizzare è tanta, e l'inquinamento che questa fonte di energia mi può provocare è un casino. Cioè non riesco poi ad abbattere l'inquinamento che ho. Questo tipo di inquinamento, tenete presente, è legato al fatto che se io scaldo qualcosa, e lo scaldo bruciando qualcosa, questo qualcosa sovente viene dal petrolio. E quindi se io scaldo e butto i residui della roba che mi è servita per fare calore nell'atmosfera, sono fregato. Non lo posso fare. Che cosa dovrei fare? Dovrei usare una fonte di calore che si converte tutta in acqua e CO2, tenendo presente che la CO2 è un inquinante sostanzialmente, ma a parte il fatto che non accade mai che tutto è bruciato alla perfezione, quindi figurati la quantità di ossido di carbonio, che invece è un veleno tremendo, viene buttata nell'ambiente, questa deve essere abbattuta. Allora ci sono diversi sistemi per l'abbattimento di questo non perfettamente combusto materiale che serve da fonte di riscaldamento, e alla fine c'è una parte che te non riesci a bruciare che mandi alla fiamma, e la fiamma va nell'aria e inquina. Cioè solamente perché scalda l'ambiente ti potrei dire inquina. Allora il problema è dove è possibile si può utilizzare una forma di energia alternativa. Come facciamo a capire quale tipo di energia va bene per la mia reazione? Allora, voi tenete presente in questo contesto del tutto generale che le vere forme di energia sono sostanzialmente quattro, che dipendono da quella cosa che gli alchimisti chiamavano i quattro elementi: terra, fuoco, aria ed acqua. Questi sono i quattro elementi che ti daranno anche l'energia fondamentale. La terra, energia del geyser. Il geyser tira fuori roba. Questa roba può essere utilizzata non solo perché ha una pressione e quindi fa girare delle turbine che ti daranno l'energia elettrica, no? Esce anche del materiale che è chimico, sostanzialmente sono prodotti chimici che te puoi utilizzare sul mercato. Quindi è qualcosa che ti dà un reddito, ma che ti produce anche dell'energia che te puoi utilizzare. L'energia quindi della terra, l'energia del geotermica, chiamiamola così. L'aria ha le pale eoliche, il vento tira, fa girare le pale eoliche producono energia elettrica, e l'energia elettrica è un'energia rinnovabile. Perché? Perché il vento non si consuma, passeranno due o tre giorni in quella zona, capiterà il vento e te andrai avanti sfruttando qualcosa che non si consuma mai, sostanzialmente. Non è come il petrolio, che te una volta che l'hai consumato prima o poi finisce. Perché, certo, magari fra 1 miliardo di anni ci saranno altre foreste che verranno macerate, si formerà il carbone, poi si formerà il petrolio, un'altra volta, sì, aspettiamo 40 milioni di anni, non è possibile. E allora bisogna pensarci prima. Il fuoco è anche legato, l'idea del terzo elemento, all'energia solare. L'energia solare, sapete tutti che esistono i pannelli solari. I pannelli solari hanno la caratteristica di sviluppare, attraverso effetti fotoelettrici, dell'energia, e questa energia può essere utilizzata. L'energia marina, non solo l'acqua che casca dalle cascate può sviluppare il movimento delle turbine che producono energia elettrica, ma le stesse onde del mare, attraverso alcuni apparecchi, mentre il mare le onde alzano e abbassano questo apparecchio, attraverso un meccanismo incredibile si crea la trasformazione dell'energia meccanica in energia elettrica, e quindi si riesce a ottenere, in modo non inquinante, perché le onde ci saranno sempre, tutta una serie di quantità di energia elettrica che te puoi utilizzare in vari scopi. Invece, quando te bruci il petrolio per girare una turbina, la turbina l'hai sempre girata, ma il petrolio l'hai anche bruciato, e quindi hai non solo inquinato, ma hai consumato una risorsa che prima o poi va a finire, che non è quindi rinnovabile, nel senso che si rinnova. Noi possiamo utilizzare queste energie nella green chemistry, noi le possiamo utilizzare in tutto. Il problema è l'economia della reazione, perché come al solito al tuo padrone dell'industria te gli devi dire, caro padrone, questa cosa si può fare in un modo diverso, però gli devi anche dimostrare che costa meno. Con l'energia noi abbiamo un gap tremendo, perché se da una parte queste energie rinnovabili sono assolutamente necessarie per portare avanti l'umanità, dall'altra parte ci sono le 5 sorelle del petrolio che non vogliono che te smetta di utilizzare petrolio. Sostanzialmente le diverse politiche nel mondo sono fatte in modo tale per cui cosa fanno gli americani? Gli americani cercano di consumare il petrolio degli arabi e di tenere per sé il loro. Così quando gli arabi avranno finito il petrolio, loro ce l'hanno ancora il loro. Questa è una delle cose che magari la gente non ha capito, però sul mercato si vede questa cosa qui. Gli italiani hanno il petrolio, però non lo usano. Quel poco petrolio che noi tiriamo fuori dall'Adriatico lo vendiamo ai russi, i quali russi ce lo rivendono a noi a prezzo raddoppiato. Quindi c'è qualcosa che non va. Capite bene che ci sono degli interessi, la EPRON in questo caso, dietro gli interessi politici che non ci permettono normale cittadino di gestire le risorse come vorrebbe. Le campagne politiche sulle energie alternative, cioè, che ne so, le pale eoliche, tutti cominciano a dirti, o meglio, qualcuno comincia a scrivere su YouTube che le pale eoliche sono brutte da vedersi. Le pale eoliche saranno anche brutte da vedersi, ma poi un giorno che non ti servono più le togli. E quindi è meglio il petrolio o le pale eoliche? Dice, le pale eoliche non ce le voglio mettere perché distruggono l'ambiente. Non lo distruggono. Sostanzialmente, quando non ti serviranno più le pale eoliche, le potrai togliere e non succederà granché all'ambiente. Una volta che invece te, per non mettere le pale eoliche, ti sei dovuto ancora una volta accontentare di bruciare il petrolio, è un casino. Allora ci sono i pannelli solari. I pannelli solari vengono messi sui campi. Una volta si coltivava la colza, ora si coltivano gli elettroni. Non so se ci avete mai fatto caso. Questo da un lato è un bene, dall'altro lato, dal punto di vista commerciale, è una tragedia. Perché il padrone che prima vendeva, non so, il grano, perché faceva il grano, ora il grano, nel vero senso dei soldi, lo fa con i pannelli solari, ma avrà da mangiare solamente per se stesso, perché creerà l'energia che gli serve la venderà e lui diventa ricco, ma è chiaro che le risorse che prima coltivava non possono essere più coltivate, quindi c'è modus est modus in rebus, come dicevano i latini, in tutto e per fare tutte le cose, fino all'istante in cui non troveremo una fonte di energia veramente alternativa a basso prezzo che tutti potranno utilizzare. E perché no, non ci vedo nulla di male nel pensare che esisterà qualche scoperta di fisica che sicuramente ci porterà in quella direzione, o magari c'è già stata, ma qualcuno se la vuole tenere per sé, sicuramente per problemi di natura politica. Beh, quando sarà il momento, chiaramente il pianeta non morirà più di fame e potremo dare anche l'energia necessaria a quelle persone che nei paesi sottosviluppati in questo istante non ce l'hanno. Diventa però questo un problema politico. Il problema chimico è un altro. Il problema chimico è: ma quando io faccio una reazione, posso usare una fonte di energia alternativa che non sia scaldare un termomanto? Perché il termomanto è collegato all'energia elettrica, l'energia elettrica è legata al petrolio. Ecco che allora nasce, per esempio, quella chimica che si rifà alle radiazioni solari. Cioè, che è un po' in fondo la chimica dei radicali, non so se ci avete mai pensato. Noi abbiamo trattato nei giorni seguenti di una reazione abbastanza interessante, che era la costruzione del nylon 66. Allora, il nylon 66 si faceva dal cicloesanone che era stato trasformato nella sua ossima. La sua ossima in ambiente di zeoliti acide andava sotto la trasposizione di Beckmann delle ossime. L'ammide ciclica a 7 termini che si formava veniva aperta e formava un amminoacido 1,6 che veniva polimerizzato e dava il nylon 6,6. Ma questo composto qua si può fare anche dal cicloesano. Come? Col cloruro di nitrosile. Il cloruro di nitrosile, che io ho scritto in questo modo, ma forse è meglio scriverlo così, per intenderci. Il cloruro di nitrosile, se te lo tratti come nella colorazione radicalica, con la luce, dà due radicali. Cl.NO. E su questo non c'è dubbio. Vedete come non è il doppio legame azoto-ossigeno che tende a rompersi, ma è il legame semplice azoto-cloro che tende a rompersi. E si tende a rompere perché l'azoto e il cloro hanno in questo contesto due elettronegatività simili. Sono abbastanza elettronegativi tutti e due. L'ossigeno, allegato all'azoto, fa in modo che il legame azoto-cloro sia sostanzialmente di natura covalente. Guardate, l'azoto pesa 14, il cloro pesa 35, quindi sostanzialmente gli orbitali che sono sul cloro sono più grossi degli orbitali che sono sull'azoto. Ma l'azoto, con l'ossigeno, è un elemento elettronegativo, quindi attira a sé gli elettroni. Che cosa fa questo? Fa in modo che la coppia di elettroni vada più verso l'azoto. Sostanzialmente, quindi, ritrasporta verso al centro del legame azoto-cloro quelli che erano gli elettroni che in altre condizioni sarebbero rimasti solamente sul cloro. In questo contesto il legame azoto-cloro nel cloruro di nitrosile è covalente, per cui ecco che quello che succede quando si scalda è quella roba lì. Chiaramente dei due, quello più reattivo dei due radicali è il cloro. Perché? Perché NO col suo radicale, il radicale ha una risonanza, può stare sull'azoto, può stare sull'ossigeno. Come c'è una formula di risonanza, il radicale si stabilizza e diventa meno reattivo. Che cosa fa questo? Noi lo sappiamo tutti, il cloro punto col ciclo esano non può fare che il radicale cicloesano più l'acido cloridrico. E su questo non c'è dubbio. Il cicloesano, che si trova in presenza del radicale NO, non fa altro che legarsi con questo meccanismo e fare il nitroso cicloesano. Il nitroso cicloesano si forma non solo con questo meccanismo, ma anche con un meccanismo a parte, che è uguale a questo sostanzialmente, in cui il radicale cicloesilico reagisce col cloruro di nitroesile dando questo composto e cloropunto. Il cloropunto reagirà ancora col cicloesano dando acido cloridrico e radicale cicloesilico. Quindi ci sono più di una via in realtà per dare il nitroso cicloesano, ma il nitroso cicloesano non esiste, o meglio, è una specie elusiva. Come te la vedi, la sua forma, tra parentesi, chetoenolica, che noi non chiameremo chetoenolica, ma chiameremo nitroso ossimica, trasforma, perché è un equilibrio, quindi devo scrivere così, questo composto nella tanto attesa ossima del cicloesanone. E da lì si ripete quello che abbiamo visto la scorsa volta, ma che cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fatto niente, abbiamo preso solamente una miscela di cicloesano e cloruro di nitrosile, l'abbiamo chiusa in un bottiglione e l'abbiamo messo sul terrazzo di casa durante una bella giornata di sole. Sostanzialmente è successo questo. Ora, chi metteva le cose sul terrazzo della facoltà era Chamichan a Bologna, che ha studiato le reazioni radicaliche. Ma oggi non è che si mette sul terrazzo, ma si usano delle lampade magari con la luce e sul pallone di reazione, e questa cosa avviene in modo spontaneo. Te non hai scaldato niente. Quindi questa è una ipotesi di lavoro che, finché la fai in un laboratorio, chi se ne frega, ma quando la fai in un impianto industriale molto grosso, l'energia che te risparmi è notevolissima. Anzi, in realtà non hai praticamente consumato niente, perché sei andato a sole, a velocità, consumando fotoni sostanzialmente. Siccome di fotoni ce ne sono tanti, non so se voi lo sapete, ma la particella subatomica più presente nell'universo è i fotoni. La seconda particella più presente nell'universo è il neutrino. Quindi di fotoni ce n'è un casino veramente forte. Il neutrino si sa manipolare ancora poco, però ce ne sono tanti. Non interagiscono con te per varie ragioni, e mentre i fotoni, e te li vedi la luce, se sei immerso in un campo luminoso. Il fotone ha poi anche degli effetti collaterali sui quali però non dobbiamo parlare noi, perché è la fisica che lì lavorerà. La fisica è sempre quella da cui stiamo aspettando una forma di energia alternativa. Un'altra possibilità che noi possiamo tenere in considerazione è usare un'energia particolare che ci possa servire nelle reazioni. In fondo ogni reazione è la rottura di un legame, quindi il legame è come una molla, e la molla si muove e te ci metti dell'energia. Cosa succede? Che quando te vuoi che un legame si rompa, te dovresti utilizzare quell'energia necessaria per quel legame lì. Allora entra in risonanza solo quel legame lì con l'energia che gli stai dando, ed è quello che si rompe. Diciamo che questo ancora non si sa fare, però quando in una molecola te c'hai uno dei legami che è il più sensibile, sarà quello che si romperà per primo. Quindi quando c'hai un cloro alcano, no? Te sai che il legame carbonio-cloro è quello che si rompe prima di tutti, da un punto di vista, per esempio, radicalico. E allora puoi scaldare essendo sicuro che il legame carbonio-cloro sarà quello che si rompe prima. Ci sono delle situazioni in cui questo legame carbonio-cloro è però molto forte, come per esempio nel caso del carbonio-fluoro. Se io voglio fare un reattivo di Grignardo di un fluoruro, come cavolo faccio? A volte nella vita succede che ti hai bisogno di fare un reattivo di Grignard del fluoro alcano corrispondente. E allora te devi eccitare in qualche modo il legame R-fluoro. Per fare questo usi delle microwaves, delle microonde, cioè usi qualcosa che ti irradia con le microonde, facendo così il legame carbonio-fluoro diventa più lungo, più lungo, più lungo e poi si rompe in questo modo, facendo quello che tu vuoi che accada. Nel contesto, quando te c'hai un alogenuro alchilico e ci metti dentro il magnesio, quello che succede è, come voi sapete bene, il reattivo di Grignard. Beh, reattivo di Grignard, tenete presente una cosa fondamentale, perché sui libri c'è scritto reattivo di Grignard. Il reattivo di Grignard ha una sua storia fondamentale. Il reattivo di Grignard apre una porta all'utilizzo dei sintoni R-, cioè quei pezzi di molecole col carbonio caricato meno. Perché prima noi sapevamo fare, ai tempi prima di Gilman, solo gli R caricati più, gli alogenuri alchilici, R più delta, cloro meno delta. E non sapevamo fare R meno metallo più. Gilman ci prova, nascono i sodi alchili, i litio alchili, che sono estremamente pericolosi. Gilman due o tre volte probabilmente nel suo laboratorio sarà anche saltato per aria, perché sì. E poi cominciano ad arrivare i magnesio alchili, che sono in qualche modo ancora difficili da farsi, ma li fai anche a livello industriale. Sono difficili per chi non l'ha mai fatti, io ne avrò fatti 300.000 nella mia vita. C'avevamo un albero in laboratorio che si chiamava l'albero dei Grignard, dove c'erano gli Schlenk pieni di tutti i Grignard di tutto il mondo, per cui te non avevi bisogno di farti un reattivo di Grignard, andavi lì e alla spina prendevi il reattivo di Grignard che ti serviva. Oh, come si fa questa cosa qui? Come avviene questa reazione? Perché io qui devo specificare che posso usare le microonde se conosco il meccanismo di reazione, se no non so perché le sto usando. Questo è un meccanismo detto Set, che non ha niente a che fare col dio egizio. Set vuol dire single electron transfer. Che cosa accade? Il legame RX come è fatto? Il legame RX è un legame il cui l'orbitale è fatto grosso modo così. X che sta qua e il carbonio che sta qua. Come vedete, il legame è polarizzato verso X, che è l'alogenuro, l'alogeno utilizzato, alogenuro perché è lui caricato meno, che attira gli elettroni. È infatti l'elemento ad avere un effetto induttivo più forte. Ok, se questo è l'orbitale pieno, l'orbitale vuoto è fatto così. Cioè, qui non c'è niente nel mezzo, il grosso dell'orbitale è sul carbonio, vedete, ed è vuoto. Cosa succede? Questo elettrone viene ficcato dentro l'orbitale vuoto e quindi io lo devo immaginare più probabilisticamente sul carbonio e meno probabilisticamente sull'alogeno. Quindi io otterrò un RX punto che varrà meno, poverino, perché c'è un elettrone in più, poi c'ho un magnesio punto che varrà più. Questi due punti si sbattono ancora tra di loro, vedete come l'universo è duale, non esiste un universo che non sia duale, tutto accade perché c'è il bianco, il nero, l'acceso, lo spento, le reazioni sono fatte tra un urto, tra due cose, non esiste una reazione nell'universo statisticamente che sia rappresentabile da un urto fatto di tre cose, perché la probabilità che tre cose in un'unità di tempo identica si sbattano insieme con un urto efficace, i fisici direbbero una sezione d'urto efficace, è rarissima, è piccola. Quello che accade è che questi due radicali danno R punto più Mg X punto. Vedi che si forma l'R punto? Perché si forma l'R punto? Perché l'orbitale più grosso, il lobo più grosso dell'orbitale sta sul carbonio. È per questo che lui, l'elettrone, preferisce rimanere qui, sul carbonio, e dare origine a R punto. Questi due si rimettono insieme per formare RMGX. Questo è il meccanismo del reattivo di Grignard. A parte tutte le sciocchezze che sono scritte, anche interessanti se vogliamo, sulla letteratura, si arriva qui. Se questo è il meccanismo, tu comprendi esattamente come hai capito tutto della chimica dei metalli di transizione in un secondo. Cioè, questa reazione qui, te puoi cambiare il magnesio, puoi cambiare l'alogeno, ma sai esattamente dove e come farlo. Quale sarà la reazione migliore? Reagirà meno il magnesio o il nickel in questa reazione? Il nickel, perché il nickel è più grosso e il nickel darà questo elettrone che è più lontano dal nucleo più velocemente. Quindi mano a mano, il palladio ancora più. Per fare un reattivo di Grignard con un cloruro alchilico e il magnesio ci puoi mettere un cloruro primario, ci puoi mettere anche 5 ore per farlo partire. Con il nickel a meno 20 gradi in un secondo ti parte la reazione. Questo per dare l'idea di che differenza c'è. Benissimo. XR è alchilico, alchenilico o alchinilico? Beh, dipende dalla grandezza degli orbitali. Un orbitale sp3 è grande, un orbitale sp2 è piccolo, un orbitale sp è piccolissimo. Quindi il magnesio in un legame carbonio-alogeno, dove il carbonio è legato a un triplo legame, fai conto un alchino, così, non ce lo metti. Non ce lo metti. Perché questo orbitale è piccolo, l'orbitale di antilegame giustamente sarà piccolo. E quindi non ce lo metti. E gli alogeni? Fluoro, cloro, bromo, iodio. Con lo iodio ti parte guardandolo. Lo sapete, per chi avrà fatto nella sua vita un reattivo di Grignard, quando il Grignard non vuole partire, per farlo partire ci metti dentro una goccia di ioduro d'etile o ioduro di metile, perché parte in quel modo lì. Lo iodio ha un orbitale gigantesco, vuoto, e l'elettrone se lo piglia facilmente. Questo cosa vuol dire? Siamo arrivati finalmente alla fine. Vuol dire che se io ho un fluoruro e voglio fare il reattivo di Grignard, è col cavolo che lo faccio se non riesco in qualche modo ad allungare artificialmente questo legame. Ecco dov'è il problema. E in questo contesto io devo sonicare il mio fluoruro alchilico in presenza di magnesio per ottenere il mio RMgF, di cui non so cosa farmene, ma qualcuno ha studiato queste, queste cose e o le fai così o non le fai. Questo è un caso limite, ovviamente, in cui sei anche costretto a usare la sonicazione. La sonicazione... come si fa? Tecnicamente c'è un bagno con dell'acqua dentro che ci metti il tuo pallone di reazione e dai il via alla sonicazione. C'è un apposito apparecchio che sonica tutto quello che c'è nel bagno ad acqua, l'acqua fuoco non piglia, quindi sicuramente puoi stare tranquilla, e quello che succede è che il legame carbonio-fluoro viene artificialmente elongato, sostanzialmente, e quindi il magnesio prima o poi riesce ad entrare a fare la sua bella reazione. Ma se io avessi più gruppi? Se io avessi più gruppi sarebbe un bel casino, perché il legame che si sonica prima è sempre il legame più facile. Più facile. La chimica della sonicazione del futuro prevede, dovrebbe prevedere, qualcuno lo... ne abbiamo parlato tante volte anche con alcuni miei colleghi, di sonicare ad una frequenza precisa. Quindi riesco assolutamente. Questa cosa non è stata ancora fatta. Io credo che non sia stata fatta per mancanza di volontà, perché se uno si mette lì, studia un po' le cose, riesce a ottenere degli apparecchi che siano in grado di sonicare non in una vasta gamma di frequenze, ma in frequenze anche un po' polarizzate, un po' precise, e potrebbe essere anche questa qui una grande scoperta della chimica del futuro. Solitamente i dati su questo tipo di aspetto della questione sono dati che derivano dai chimici fisici, dagli spettroscopisti, che sono quelli che studiano quanta energia c'ha quel legame lì, utilizzando chiaramente l'occhio dello spettrometro che hanno a disposizione. Questo è un po' l'aspetto della questione. Quindi, se abitiamo in Francia, sulla Riviera francese, che è la parte d'Europa che è più soggetta al vento, ecco che troveremo lì gli impianti eolici in abbondanza, sostanzialmente. E chiaramente, se magari vogliamo fare una reazione nel deserto, sceglieremo il pannello solare o la reazione radicalica. Quindi se noi dobbiamo adibire uno dei nostri delle nostre fabbriche a produrre quel determinato tipo di prodotto che si può fare con un certo determinato tipo di energia, dobbiamo scegliere quale delle nostre fabbriche sarà più adatta spendendo meno, perché in quel luogo dove è quel tipo di energia sarà a portata di mano. Se te vuoi utilizzare l'energia della terra, dovrai andare vicino ai soffioni boraciferi, faccio per dire, per utilizzare quelle che sono le turbine che hai a portata di mano sotto casa. Questo non è un problema chimico, è un problema della scelta del chimico, che sovente è il tuo padrone. Poi quando il chimico fa carriera, non ho mai visto un chimico fare carriera, e diventa lui il padrone dell'industria, allora sarà lui che, sapendo le cose, non ci avrà bisogno di un intermediario. Però la vedo dura, ecco, da questo punto di vista. Punto numero 7. Punto numero 7. Allora, uso di materiali primi rinnovabili. Oh, e qui abbiamo una cosa fondamentale. Come vi dicevo, il petrolio si consuma. Se io invece pianto la canna da zucchero, poi la faccio crescere, poi la taglio, poi la trito e poi dalla canna da zucchero ci ricavo il glucosio, l'oxilosio, il lixosio e tutta quella serie di glucosidi che mi permettono di utilizzarli nella sintesi organica, io il prossimo anno ripianto la canna da zucchero e dopo un po' ci riavrò la fonte di energia che mi è servita per fare tutte queste cose. Non crediate che sia una grandissima panacea, ma è sempre meglio che bruciare il petrolio. Perché? Perché chiaramente ci vuole, è vero che il terreno ti riproduce la risorsa, però il terreno tu lo devi, ahimè, concimare, lo devi trattare, lo devi lavorare, ci sono delle problematiche in ogni caso, ma sono problematiche che in confronto all'utilizzo del petrolio sono sicuramente da preferire. Le materie che possono essere riciclate sono tantissime. Per esempio, noi abbiamo montagne di carta degli uffici vecchi che noi non sappiamo più utilizzare e che vengono portate al macero. La carta viene riciclata in continuazione. La carta, se trattata chimicamente, può riportare quelli che sono a quelli che sono i prodotti necessari per questo tipo di chimica. Ci sono sostanzialmente dei composti che possono essere utilizzati come precursori di moltissimi composti chimici che prima venivano dal petrolio. A parte il fatto che vedremo in un capitolo dedicato a questo problema come è possibile ricavare quasi tutto dal glucosio, sostanzialmente, dall'ixosio, dall'arabinosio, dal fruttosio e così via, c'è comunque l'acido levulinico che viene fuori da questi sottoprodotti, che sono anche a partire dalla macerazione della carta all'utilizzo di quella parte che sostiene le piante, cioè la parte della lignina, quelle cose lì, che è piena di acido levulinico. L'acido levulinico sostanzialmente è fatto così. CO, OH, 1, 2, CO, CH3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Quindi è un acido pentanoico 2 ore, si potrebbe dire così. Da una parte, diciamo così, è un etile, un gruppo etilico, questo, che da una parte c'ha un gruppo carboidrossilico e da una parte c'ha un gruppo acile, COCH3. Da questo composto noi possiamo fare una marea di cose. Innanzitutto lui costa poco, costa poco perché la forma di energia è rinnovabile, quindi l'anno prossimo ce lo riavremo. Noi possiamo costruire, guardate quanti composti, questa freccia in realtà è sbagliata, devo scrivere così. Possiamo preparare questi composti, possiamo preparare tetraidrofuran, cioè il metil tetraenofurano. Possiamo preparare strutture di tipo beta-lattamico, possiamo preparare questo, che è un po' l'acido crotonico, un acido alfa beta insaturo, come l'acido acrilico, no? L'acido acrilico che ti permette di fare gli acrilati. Poi per i polimeristi sono pane per i loro denti. Possiamo fare composti fatti così, o composti fatti così. Queste sono ammine 1,4, idrossiammine, che sono per esempio legate alla struttura della putrescina e delle putrescine, che sono composti che sono da una parte veleni importanti, ma dall'altra parte sono composti che di solito vengono tirati fuori dalle alghe marine e da altri prodotti di partenza, che sicuramente naturali, servono per fare dei medicamenti, delle medicine molto importanti. Si capisce immediatamente come si riesce ad organizzare questa cosa. Vedete, quando voi avete un gruppo carbonilico e un gruppo carbossilico, il gruppo carbonilico e carbossilico si possono chiudere insieme formando quella cosa che viene identificata come, la vedete qui, come lo chiudete insieme, una molecola che è fatta, scusate, così, OH, OCH3, quando si chiude si forma quella specie di emiacetale ciclico fatto così. Questo emiacetale ciclico fatto così, tu lo gli togli l'acqua a caldo, fai così, e quando riduci il doppio legame ecco che ottieni una struttura di questo tipo. È un esempio. Arrivare a questo composto qui vuol dire essere in grado di ossidare questo legame ad acido, cioè farci il COOH. Come si ossida un metilchetone? Con lo iodoformio, per esempio. Chiudi la molecola e ottieni un prodotto che non ha più questo metile, no? Vuoi ottenere ancora questi composti con o senza metile, riduci tutto con sodio boroidruro in acqua. Guarda questo, ma questo, il 2-metil-tetraidrofurano, non era forse quel solvente alternativo al tetraidrofurano che io volevo utilizzare prima? Ah, ecco da dove lo fanno, ecco perché costa poco, ecco perché lo posso utilizzare. Quindi ci sono dietro questo tipo di chimica una serie di possibilità che vedremo nel capitolo apposito. Ora lo enunciamo solamente come punto, se vogliamo, per farvi capire che sostanzialmente dall'ossilosio ci facciamo il furano. Come qualcuno a chimica organica 2 avrebbe forse dovuto dire, ma non so se ve l'ha detto. E quindi anche sul problema delle risorse di questo tipo, tenete presente che eterocicli a 6 centri e eterocicli a 5 centri, a 5 termini, con l'ossigeno ovviamente, ma come ci metti l'ossigeno, sei in grado di sostituire, perché la chimica che conosciamo, l'ossigeno con l'azoto e con lo zolfo, quindi ci fai furani e tiofeni, tetraidro e diidro, ci fai i pirani, tetraidro e diidro, e ci fai praticamente una quantità di composti eterociclici che te non ti immagini nemmeno. Quindi non solo i composti ciclici, ma anche tutto quello che ne deriva dall'apertura di questi composti e quindi dall'utilizzo degli eterocicli in chimica organica. Gli eterocicli in chimica organica servono sia perché essi sono importanti come tali, ma servono perché c'è un capitolo importante della chimica organica che parte dagli eterocicli, che si fanno più facilmente a volte di altri composti, e ti portano quegli eterocicli a essere precursori diretti di composti polifunzionalizzati ad alto valore aggiunto. Il tiofene. Il tiofene è una molecola C4. Te riduci il tiofene con opportuni sistemi, che ne so, nickel boro idruri, e ottieni una catena C4. Quindi se sul tiofene ci sono dei gruppi funzionali che non vengono aggrediti da questi riducenti, questi te li trovi, te li porti dietro e tu c'hai una struttura alifatica che ha questi gruppi polifunzionali. Siccome sul tiofene si possono fare le reazioni di sostituzione elettrofila aromatica, prima sul tiofene ci attacchi la roba che ti interessa, nelle posizioni che ti interessa, poi riduci tutto e c'hai questa roba nelle opportune posizioni. È una strategia. Dai sali di pirilio ci si fa il benzene, i composti aromatici. Dalle cumarine ci si fanno le naftaline, senza contare che cosa ci si fa dagli epossidi, gli alcheni, che cosa ci si fa dalle ossazine o sazzoline di Meyer. Meyer ha scritto un libro proprio su questa roba, in cui fa vedere come gli eterocicli possono essere utilizzati come materiale di partenza per ottenere tutta quest'altra roba. Quindi, dietro queste reazioni qui, quelle là sopra, chiaramente c'è metà chimica organica. Non vi fate fregare dall'idea che ci si possano fare solo molecole piccole e semplici, perché non è così. L'altro punto importante è legato alle riduzioni dei derivati. Si chiama così. Chiamiamolo così. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io in una reazione organica devo fare una variazione di gruppo funzionale, ma ho, che ne so, tanti altri gruppi funzionali che potrebbero essere andare sotto quella reazione e quindi trasformarsi, ma io non li voglio trasformare, sono costretto a proteggerli con dei gruppi protettivi. Gruppi protettivi, non protettori. Protective groups in organic chemistry, non protector groups. Quindi si dice gruppi protettivi. E sui libri c'è scritto gruppi protettori semplicemente perché chi scrive questi libri non sa l'inglese. Io non so l'inglese, ma mi sono accorto di questo problema, perché me l'ha detto un inglese, ovviamente, se no non ci avrei mai fatto caso. Non si possono usare i gruppi protettivi nella green chemistry. Non si possono usare. Perché? Perché si tratta di due reazioni in più. Devi proteggere un gruppo protettivo e lo devi sproteggere. Sono due passaggi, andranno al 90% tutti e due. Bene, 9 per 9 è 81, te hai perso sul 100%, l'81% di resa arrivi. Hai perso 20 punti sulla percentuale della tua reazione se le reazioni vanno benissimo. Hai perso 20 punti sulla resa, non solo, ma hai dovuto fare due reazioni, hai dovuto usare due volte il solvente, hai dovuto usare due volte l'operaio che ti fa la reazione, hai dovuto usare e pulire due volte il pallone o il reattore, hai dovuto usare due volte l'energia. Mettila come ti pare, certo, i gruppi protettivi per loro natura sono gruppi protettivi che occupano poco spazio da un punto di vista energetico, cioè li fai bene, li sfai bene, vabbè, questo lo sappiamo, ma nell'aspetto della green chemistry non li puoi più utilizzare. Pensa solamente all'efficienza chimica sugli atomi di carbonio. Te butti via della roba che sovente, anzi quasi sempre, non utilizzi più. Quindi devi fare in un altro modo. E facciamo un esempio. Il fare in un altro modo prevede che tu quella reazione lì, per ottenere quel prodotto che vuoi, se sei obbligato a passare attraverso un gruppo protettivo, non la puoi fare. Te devi inventare un'altra reazione. Per esempio, facciamo un esempio. Che ne so? Io voglio ottenere, qui mettiamoci N su questa molecola, voglio ottenere questo composto. È chiaro che parto da un acido chetone, voglio ridurre solamente l'acido. Per fare questo, la vecchia maniera era proteggere il chetone con un gruppo protettivo, che poteva essere un diossolano, trattare tutto con litio alluminio idruro, scriverò LAC, lithium aluminum hydride, come dicono gli americani, e ottenere OH, e questo successivamente trattarlo con H+, in idrolisi, H2O, meno questo, che è di difficile, l'1,3-propandiolo, prodotto di scarto, è difficile recuperare anche dall'acqua perché è completamente solubile nell'acqua, quindi se te lo vuoi recuperare spendi un sacco di soldi e di fatiche. In laboratorio di chimica organica non si recupera, si butta via tutto, per ottenere questo prodotto, perché questo non lo puoi più fare. Quindi devi usare una strategia differente, perché queste due reazioni sono due reazioni in più, si butta via roba. Quindi ti tocca una reazione diversa, non c'è niente da fare. Allora, se te c'hai una situazione fatta così, per esempio in cui ci sono due gruppi, te sei costretto in qualche modo ad applicare una tecnica differente. Te quello che vuoi sostanzialmente è questo. Allora parti direttamente da qui e cerca di fare non quello che si faceva una volta con la retrosintesi. Cioè, avete presente la retrosintesi? La retrosintesi è quella tecnica sviluppata a metà degli anni 80 dagli americani, per cui a partire da una molecola gigantesca te spezzi la molecola in tanti pezzi tornando indietro e vedendo da qual è il punto che devi partire. È molto più facile lavorare così. La retrosintesi ha delle regole precise, è un po' il gioco delle calamite. Per chi non sapesse niente sulla retrosintesi, c'è un testo che si chiama Warren. Beh, la Menicagli l'ha fatta a lezione all'Organica 2. Warren. In biblioteca c'è. In questo contesto te hai un composto 1, 2, 3, 4 di funzionalizzato. Scoprirete subito che voi sapete fare i composti 1, 3 e 1, 5, ma gli 1, 2, gli 1, 4 no, più difficile. Perché in qualche modo te devi dividere questa molecola in due cose che si chiamano sintoni. Due sintoni. I due sintoni sono, lo scrivo qua, CH2, che ne so, meno, e CH2 più, formalmente, che si attacchino insieme. Se io riesco a fare questi due sintoni, si chiamano così, questi due sintoni hanno degli equivalenti sintetici veri. Il sintone lo scrivo sulla lavagna, ma non è che vado a comprare, mi dia un etto di questo anione. No, te lo puoi assimilare questo a un equivalente sintetico. L'equivalente sintetico di questo potrebbe essere, per esempio, CH2Cl, che ne so, dico così per dire, perché questo è caricato meno, questo è caricato più, questo è caricato meno. Quindi questo equivalente sintetico qui non va bene, vedi? L'equivalente sintetico di questo è CH3, dove questo è un idrogeno acido, tratterai con una base di idrogeno acido e sai che ti viene fuori questo. E qui ci puoi mettere questo, CH2Cl, CH2OH, sostanzialmente, perché questo sarebbe più delta, questo sarebbe meno delta. Però guarda questo qui come è fatto. Questo qui è fatto in modo tale che sostanzialmente lui è simile a questo, CH2O, perché sostanzialmente questo è caricato più delta, questo è caricato meno delta, e hai sostanzialmente risparmiato un cloro, hai risparmiato un acido cloridrico. Che cosa può voler dire questo? Questo può voler dire che se te ci avessi un sintone fatto così e lo sbatti qui, ti potrà aprire questo epossido. L'idea fondamentale è no, perché questo qui condensa con se stesso e ti fa casino. Nessun problema. Però te sai qual è la strategia. La strategia è questa. Allora, al posto del chetone, te ci metti un bel vinilettere. Al posto di questa molecola qua, giustamente te ci metti l'epossido e li metti insieme. E che cosa succede? Niente. Non succede niente perché sono due molecole neutre e, come voi sapete, nelle reazioni di condensazione, perché questa è una condensazione, una delle due deve essere caricata. O la meno con la neutra o la più con la neutra. Va bene. Nei contesti in cui ci sono cose di questo tipo, noi ci aggiungiamo. Cosa si fa? Un acido di Lewis. L'acido di Lewis si complessa qui, che ne so, MgX2, rende questo fortemente più delta. Guarda cosa fa questo qui. Questo fa così e questo fa così. E capisci che te hai ottenuto subito la tua struttura. Perché ti faccio questo esempio? Per farvi capire come ho ragionato. Come ho ragionato? Mi sono inventato una reazione che sul libro non c'è. Non c'è questa reazione sul libro. Magari se facciamo letteratura qua si scoprirà che qualcuno l'avrà fatta. Vi posso assicurare che questa me la sono inventata ora. Me la sono inventata. Qual è il problema? Il problema è che il chimico verde, ecosostenibile, è costretto ad inventarsi delle reazioni. Sulla base della cultura delle reazioni che ha, deve cercare di trovare quelli che sono i parametri per far funzionare una cosa che non ha mai fatto nessuno. Allora, da questo contesto è evidente che bisogna sapere la chimica, perché se no non la fai questa roba qui. Ti può aiutare molto l'approccio retrosintetico, cioè vedere, tornare indietro i pezzi positivi e negativi che puoi mettere insieme e poi aggiustare la reattività sulla lavagna per cercare di fare quello che vuoi ottenere. E chiaramente, che cosa prevede questo? Questa reazione, questo tipo di approccio prevede che ti sappia la chimica retrosintetica del Warren, la reattività dell'idrogeno in posizione alfa ai composti carbonilici, la reattività dei vinileteri legati alla presenza di acidi di Lewis e la reattività degli epossidi che si aprono con gli opportuni acidi di Lewis, e quello è l'ossido di chilene. Ma se c'era un CH3, da che parte si apriva? Cioè tutta quella serie di meccanismi di reazioni che ti dico, se tu vuoi fare green chemistry devi sapere 100 volte di più di chimica organica. Perché quando arrivi qui, o così o com'è, se no ti tocca usare il gruppo protettivo. E se vuoi usare il gruppo protettivo, devi spendere un sacco di soldi, non va bene. Ecco, questa è un po' l'idea fondamentale, no? Che cerco di passarvi in questa fase. Cioè, cerchiamo di immaginarci delle reazioni che non ha mai fatto nessuno, ma sulla base delle nostre conoscenze, di quello che c'è scritto in bibliografia, noi siamo sicuri all'80% che questa reazione andrà. Poi la proverai. Non ti funziona l'MgX2? Perché io ci ho già messo l'MgX2, ma non ci potevo mettere la LCL3, no? Vedrai che funziona anche con la LCL3, ma io lo so per l'esperienza di laboratorio che come ci si comporta, ci si aggancia bene l'MgX2 all'ossigeno, che il magnesio è ossifilico, l'alluminio meno. L'MgX2 che è il bromuro di magnesio in questo contesto. Vuoi aumentare la reattività dell'alogenuro come acido di Lewis, usa l'MgCl2. Vuoi aumentare la reattività bestia, usa BF3. Vedrai come il BF3 ti apre quella reazione lì. Non c'è nessun problema, perché io vedo e so che il BF3 apre gli epossidi in tantissime altre condizioni, anche a zero, a meno 20 gradi. Quindi tranquillo che ti trovi l'acido di Lewis che ti apre l'epossido, e a quel punto il vinilene ci si aggancia in un microsecondo. Dietro questo c'è anche la reattività delle enammine, che ovviamente dipendono da quella che è la reattività dei composti carbonici mascherati. Quindi, cioè, te devi sapere un casino di cose, no? Perché se no, cioè, ti risulta difficile cercare di aggirare un ostacolo. Le reazioni sono sempre state fatte così, devono essere fatte così, vabbè, cambiamo, ma cambiamo come? Se sono sempre state fatte così, nessuno ti aiuterà a trovare un modo diverso. Te lo devi trovare da solo, il modo diverso di fare la reazione. Questo è un problema. Non troverai nessuno che ti aiuta perché nessuno l'ha fatto prima, nessuno lo sa fare, quindi ti tocca farlo da solo, ti deve venire in mente un trucco, perché se no non vai avanti. Ecco, questa è un po' la figura del ricercatore, no? Il ricercatore non è che deve fare le cose che sono già state fatte, deve sempre fare delle cose nuove che gli vengono chieste o che lui stesso chiede a se stesso, quindi deve essere in grado di manipolare la realtà virtuale a suo uso e consumo, e per farlo devi sapere le regole della realtà virtuale. Capisci cosa voleva dire il meccanismo single electron transfer del reattivo di Grignard? Te con quel meccanismo lì hai capito esattamente come qualsiasi metallo della tabella periodica degli elementi ha la probabilità di entrare in un legame carbonio eteroatomo, cloro, bromo, iodio, ossigeno, zolfo, azoto, in the same way, nello stesso modo. Pensa, metà della chimica organometallica in un colpo solo, con un meccanismo solo. Punto numero 9, la catalisi. Nella green chemistry tutto ciò che è catalitico con l'uso di un catalizzatore in quantità catalitica è auspicabile. Che cos'è il catalizzatore? Allora, il catalizzatore non è quella cosa che te ci metti dentro in quantità catalitica e la ritiri fuori uguale. La definizione di catalizzatore è un'altra. Il catalizzatore è quella cosa che, messa nel bulk di reazione, ti abbassa l'energia dello stato di transizione. Che poi ce ne debba mettere una tonnellata o poca, che poi il catalizzatore si scatalizzi, cioè si rompa, si distrugga e faccia un'altra cosa, oppure che rimanga, si rigeneri in qualche modo, a te non te ne frega niente. Il catalizzatore è quello che abbassa l'energia dello stato di transizione. Oh, perché così facendo, cosa fa? Aumenta il numero degli urti efficaci nell'unità di tempo necessari per mandare avanti la reazione. In parole povere, una reazione che dura 2 anni dura 4 secondi. Il catalizzatore nella chimica industriale può essere un sacco di cose. Può essere H+, può essere OH-, può essere un metallo di transizione. In questo contesto, il metallo di transizione bisogna sapere cosa fa. Cioè bisogna capire qual è il meccanismo che muove un metallo sovente di transizione a fare delle cose. I metalli di transizione hanno diverse caratteristiche. Innanzitutto hanno dei numeri di ossidazione variabili. Quindi non è come il sodio che ha o 0 o più 1 e da lì non si muove. Il metallo di transizione, che può essere il nickel, che può valere 0, 2, 3, 4 in specie elusive, cioè in specie che poi alla fine non si presentano, perché sostanzialmente il nickel vale o 0 vale 2. Però nel mezzo, nel meccanismo di reazione, c'ha degli istanti in cui cambia lo stato di ossidazione, come il palladio e il platino che stanno sotto. Ma te c'hai la possibilità di avere un manganese, un ferro, il ferro vale 0, 2, 3 sostanzialmente. Il manganese vale un sacco di cose, perché arriva fino a 7, a più 7. E chiaramente I metalli di transizione hanno una caratteristica, fanno sostanzialmente reazioni di addizione ossidativa, eliminazione riduttiva, che è il contrario dell'addizione ossidativa. Quindi, sostanzialmente, loro, nella stragrande maggioranza dei casi, anche se sovente sui meccanismi non si vede, cambiano lo stato di transizione da un numero n a un numero n più 2, per cambiare da n più 2 e tornare a n. C'è un salto nell'addizione ossidativa di 2, un valore 2, qualunque essi siano. È evidente che i catalizzatori sono la fine del mondo, perché tu riesci a fare delle cose che senza catalizzatori non sei in grado di fare. Facciamo solo un esempio, perché è solo per fare un esempio qui. Poi magari qui si aprirebbe la chimica dei metalli di transizione, si aprirebbe, capito? Facciamo un esempio che ne so, dalla chimica organica tutti conoscete. Si può fare un chetone a partire da un cloruro acido? La risposta è ni. Si può fare un chetone a partire da un cloruro acido, RCOCl. Lo posso trasformare in RCOR1. Se lo tratto con un reattivo di Grignard, R1MgX, si sa che nella maggior parte dei casi io ottengo il chetone, ma poi il chetone finisce per essere successivamente ridotto da un'altra molecola di reattivo di Grignard, perché il chetone è molto reattivo. È vero che il cloruro d'acido è più reattivo del chetone, è vero, ma è anche vero che il reattivo di Grignard è un docoio-coio, cioè per far funzionare questa reazione un signore ha fatto sul tetraedron lattice in tetraidrofurano questa reazione a meno 50 gradi con un eccesso 5, 6, 10 a 1 di cloruro acido. Questo signore si chiama Vito Zadel è tristemente conosciuto perché anni dopo è scappato, era tedesco lui, è scappato dalla Germania perché stava facendo un dottorato di ricerca con Breitmeyer. Breitmeyer è quello che è il teorico che ha inventato sostanzialmente il carbonio 13, perché aveva pubblicato che si poteva fare una costruire, fare, sintetizzare una molecola otticamente attiva utilizzando la risonanza magnetica nucleare, facendo reagire un chetone, per esempio pro-chirale, giustamente, con un reattivo di Grignard, facendo girare il tubino a destra o a sinistra. Pubblica questa roba. Pubblica 5 lavori su questa roba. Vende il brevetto alla Bruker. Tutti vanno a cercare di riprodurre questa roba in laboratorio e si scopre che non è vero. Io non lo so gli altri miei colleghi, ma io nei corridoi di questo dipartimento dicevo: guardate che non è possibile, non si può fare, perché questa cosa va contro il secondo principio della termodinamica. Non si può creare una cosa otticamente attiva a partire da due cose che non sono otticamente attive. Si scopre chiaramente, in una settimana il bromuro di metilmagnesio venduto dalla Aldrich è esaurito in tutto il mondo perché tutti l'hanno comprato per fare quella reazione. Dopo una settimana nessuno gli era venuta questa reazione, perché si è scoperto che il secondo principio della termodinamica vietava questa reazione. Guido Zadel, che è quello che ha fatto quest'altra reazione, è scappato, non si sa più dov'è. E Breitmeyer, che era il suo capo, dice: ma io ho firmato il lavoro, credevo che fosse corretto. Quindi Breitmeyer, che fra un po' gli danno il premio Nobel per il carbonio 13, ha chiaramente dimostrato come si mettono i timbri sui lavori. Tedesco Breitmeyer, quindi figurati in Italia, all'Università di Napoli, oppure anche all'Università di Pisa, cosa succede con questi lavori. E quindi non vi fidate di questa reazione, perché è l'unico caso in cui fanno un reattivo, usano un reattivo di Grignard a partire da un cloruro acido per fare un chetone. Non si può fare, non ha non funziona. Devo, dice l'organica 1, diminuire la reattività del reattivo di Grignard facendo un'altra cosa, usando qualcosa di meno reattivo. Che cosa dice il libro di chimica organica? Il cadmio alchile. Che cosa? Il cadmio alchile non si può usare nell'industria, è altamente benefico. Il boro alchile, l'alluminio alchile, lo zinco alchile, benissimo, sì. Ma lo sapete come si fanno questi composti? Da reattivo di Grignard per scambio metallo alogeno. Quindi vuol dire che te devi sempre farti il reattivo di Grignard. Quindi c'è sempre un passaggio in più. Non si può usare un catalizzatore. Allora, sai come si fa questa reazione nella realtà? Con il catalizzatore. C'hai questa cosa qui. Ci metti dentro uno schizzo di nickel di cloruro con due fosfine attaccate insieme, così. Queste sono due fosfine, è un legante, di solito è etilene, CH2CH2. Non è banale, scriviamo una volta. Fenile. Questa è la realtà. Questo è un legante bidentato, fosfinico, che si aggancia al nichel in posizione cis. E poi, questo ce ne metti un miliardesimo di grammo. E poi cominci a percolare dentro plip, il reattivo di Grignard come avresti fatto normalmente senza catalizzatore, temperatura ambiente o bagno di ghiaccio più R'MgX. La prima cosa che il reattivo di Grignard fa, vede il nickel, che è la cosa positiva, perché se è vero che il carbonio è positivo, ma chi è più positivo di tutti? È il nickel più 2. E allora il nickel viene trasformato in R fosfina, ora la possiamo scrivere così. Il dialchil nickel di fosfino, etano, subisce la reazione di eliminazione riduttiva, che non è detto prima che il nickel fa questo, ma lo fanno tutti. Queste due fosfine, che cosa cavolo servono? Servono a quello che serve l'etere etilico nel reattivo di Grignard. Il reattivo di Grignard, RMGX, viene preso, perché non è solubile, se no, dai due atomi di ossigeno, di due molecole di etere, e con un angioletto viene portato in soluzione. Il magnesio, in quel contesto, complessato a due molecole di etere, ha lo stesso elettronico, e quindi è stabile, per questo si complessa e va in soluzione. Noi, qui ci abbiamo due fosfine. No? Che ne so, ti potrei dire nella reazione di ossidazione di un aldeide ad acido con l'argento. Cosa ci fa l'ammoniaca dentro la reazione? L'ammoniaca ti prende l'argento e te lo porta in acqua, perché sennò l'argento è in soluzione, non si scioglie, capito? Quindi vedi che è la stessa reazione, non cambia niente. Beh, nickel zero. Il nickel zero è un reattivo di Grignard. Qui c'è un alogenuro acilico, allora l'alogenuro acilico con un meccanismo di single electron transfer che abbiamo visto prima inserisce il nickel come se fosse un reattivo di Grignard. A questo punto, plip, io sto sempre aggiungendo il reattivo di Grignard. Cosa fa il reattivo di Grignard? Più R'MgX. Il reattivo di Grignard va sempre dietro al nickel. Del carbonile se ne fotte, del carbossile, perché è positivo, ma molto meno positivo del nickel. Questo è positivo. Allora lui reagisce e fa una sostituzione qui. E fa RCO nickel R1, due fosfine, tra. Ma a questo punto, ta-tan, gioco finale, eliminazione riduttiva, R' più nickel di fosfino etano, che ritorna necessariamente a reinserirsi in un'altra molecola di cloruro acido. Hai fatto la stessa reazione che facevi prima. Non hai cambiato niente. Ci hai messo semplicemente uno schizzo di nickel 0, sostanzialmente detto. Oppure di nickel 2, tanto diventa nickel 0 dopo le prime due gocce di reattivo di linea. A temperatura ambiente, immediatamente, reazione che dura un secondo, resa del 100%. Ecco a cosa serve il catalizzatore. In questo contesto, la reazione che prima si faceva in tetraidrofurano, distillatutto, pericoloso, cose, eccesso di cloro dell'acido, il cloro dell'acido devi fare dal cloro salile, dal fosgene, nell'industria non si può usare, casino. Invece ce ne vuole meno, ce ne vuole poco, ce ne vuole un sesto di quello che veniva usato dall'autore di quel testo lì. Quindi, ragazzi, siamo alla grande, insomma. Ecco, e sulla catalisi c'è un altro aspetto, arrivederci, della questione, che è un nodo fondamentale che è più filosofico che altro, ed è: ma la catalisi è omogenea o eterogenea? Si deve solvatare tutto oppure no? Sostanzialmente ci sono ogni bodda ama il suo bodicchio, dicono a Livorno, cioè ogni scarafone bella mamma soia a Napoli. Chi ha studiato sempre le catalisi omogenee dirà che come la catalisi omogenea non c'è, chi ha studiato quell'altra dirà le stesse cose. In realtà il problema è che sostanzialmente una vera e propria catalisi eterogenea non esiste. Cioè, il catalizzatore, che era eterogeneo, qui il dicloruro, diventa una specie catalitica, che è diverso dal catalizzatore, che è omogenea, il nickel zero, che in soluzione fa le cose che deve fare. Alla fine della reazione, il nickel ritorna a essere nickel 2 alla fine della reazione, e riprecipita alla fine della reazione. E te, se non stai attento, credi che sia rimasto sempre quello che era prima. No! È passato in soluzione. Almeno in un buon numero di casi in cui si credeva che la catalisi fosse eterogenea, questa in realtà si è dimostrata essere omogenea. Però c'è anche un altro tipo di catalisi che sicuramente ha più le caratteristiche di essere eterogenea, cioè quella catalisi in cui il catalizzatore è supportato da una matrice polimerica solida. Ne parleremo quando arriveremo lì. Però è chiaro che lì il catalizzatore ce l'hai appiccicato a una matrice polimerica e quindi è più complicato pensare che si stacchi dalla matrice polimerica, faccia quello che deve fare e poi si riattacchi, oppure non si riattacca e la matrice polimerica perde dei siti attivi, perché a volte succede così. È una questione di lana caprina, però quando uno solitamente interrompe queste reazioni a metà, nelle catalisi eterogenee, va a vedere cosa c'è in soluzione omogenea, scopre che c'è il metallo di transizione. Quindi evidentemente qualcosa si è staccata per rendersi solubile, se no la reazione non avverrebbe. Non ci metto le palle sul fuoco, però nella maggior parte dei casi in cui si pensava che la reazione fosse eterogenea, tanto eterogenea non appare. Ecco, questo andava sottolineato. Il punto 10. Disegnare un sistema per degradare i prodotti che vengono fuori. Se la reazione butta fuori della roba che non va bene, che è inquinante, questa roba va distrutta in qualche modo. Quindi ci sono delle spese comunque da fare e bisogna cercare di ridurre l'aspetto dell'inquinamento e anche l'aspetto ovviamente legato ai soldi in questa operazione. Di buon occhio viene vista l'idea in qualche modo di distruggere, di degradare questi prodotti utilizzando la biochimica, cioè gli enzimi. Gli enzimi sostanzialmente, ci sono delle vasche nell'industria dedicate allo smaltimento di questi prodotti e i prodotti vengono buttati in queste vasche con opportune regole ovviamente, se no i microrganismi muoiono. E questo è uno dei sistemi per ora che sembrano dare dei buoni risultati, se no bisogna andare ovviamente a immaginarci di fare cose che si possano comunque biodegradare. Biodegradare anche, che ne so, con la luce, semplicemente. Il problema dei sacchetti di plastica. Una volta si usavano dei polimeri che poi non, difficilmente nell'ambiente l'ambiente li poteva smaltire, rimaneva la plastica originaria, rimaneva quella che era per millenni. Invece ora si usano questi altri sacchetti che sono sicuramente fatti con monomeri differenti che subiscono in tempi abbastanza brevi la degradazione a molecole più piccole fino ad arrivare a monomeri, i quali possono essere poi dispersi nell'ambiente perché magari sono solubili nell'acqua e con le piogge poi finiscono nel terreno, sperando che questo terreno non venga ovviamente inquinato. Numero 11, e siamo quasi alla fine, possibilità durante il processo, il percorso della reazione nell'impianto, di fare delle analisi che ci facciano capire che non sta succedendo nulla di grave. Quindi bisogna sviluppare, ma questo è qualcosa che riguarda più la chimica analitica e non la chimica organica verde, la chimica analitica verde, se vogliamo così dire, processi che ti permettano di capire immediatamente che cosa sta succedendo, tecniche veloci di analisi che possono essere le cromatografie, le spettroscopie, fare dei prelievi lungo il percorso che ti permettano di comprendere esattamente che cosa sta succedendo, così come fare i prelievi dell'aria e dell'acqua, ovviamente dei solventi che te hai usato e che stai riciclando alla fine della reazione, per poter poi capire se il solvente può essere recuperato così com'è o deve essere ripurificato, come fa la Solvay, per esempio, che fa il polietilene con l'esano e deve per forza recuperare l'esano alla fine della reazione. È un esempio tra i miliardi. E l'ultimo punto, sono punti che ovviamente a noi ci interessano poco, perché non sono punti in cui il chimico organico veramente può entrare a gamba tesa, ma sono punti che comunque fanno parte dei famosi 12 punti della Green Chemistry, quindi vanno comunque nominati. Prevenzione in qualche modo di tutti quelli che possono essere gli incidenti di percorso finali. Quindi chimica, direi, alla fine intrinsecamente più sicura. Questo prevede di utilizzare ovviamente da una parte prodotti che non siano pericolosi. Una volta si usava il cianuro di sodio, ora si usa il cianuro di zinco. Una volta si usava l'aldeide formica, oggi si usa l'1,3,5 triossano, che è un polimero dell'aldeide formica. Questo per quanto riguarda i prodotti. Per quanto riguarda le fonti energetiche, sono fonti che chiaramente devono inquinare meno. Tecnicamente si potrebbe dire che queste reazioni dovrebbero essere sempre il più pulite possibili. L'abbiamo visto l'analisi dei solventi, l'utilizzo di questi solventi, il cercare di non usarli per niente, ancora meglio, l'acqua. Molte volte viene male interpretata questa regola e si pensa che se te fai tutte queste cose pericolose in un posto dove non c'è nessuno, va bene così. È una male interpretazione di questa regola. Te comunque in un posto dove non c'è nessuno, un giorno ci sarà qualcuno e comunque l'inquinamento di quel posto lì si spande comunque sul pianeta Terra, perché noi siamo in una sfera da cui non possiamo scappare, quindi voglio dire, almeno per ora. Quindi ecco, voglio dire, andare a mettere un impianto in una zona sottosviluppata perché sai che nessuno ti romperà le palle, sia da un punto di vista economico con le tasse da pagare, sia perché la manodopera la paghi meno, sia perché la gente culturalmente è meno impegnata sul lavoro della Green Chemistry, è una gran fregatura, perché ti va bene mille volte, poi la volta che ti va male fai fuori 600 persone in un colpo solo. Ecco, questo era un po' l'ultimo punto fondamentale a cui dovevamo fare mente locale. Finalmente sono finiti questi 12 punti e dalla prossima volta cominciamo il vero primo capitolo, che è le reazioni multicomponenti. Fine della trasmissione.